Ciao Cinattari, buongiorno. Ciao Gio Maria. Ho messo l'antenna a posto, però l'ho messa più bassa. Magari non lo so come mi ascolti lì. E la radio è bassa, Lazzarini. È bassa la radio. È molto cupa, capito? Molto cupa, ma si capisce però, si capisce abbastanza bene. Solo che bassa la radio. Guarda, si è aumentato adesso, dovrebbe essere aumentato anche il segnale. Sì, adesso è aumentato il segnale anche, 6,920. E cappala. E adesso già va bene, alta lì, adesso ti copia abbastanza bene, vai. Anche la radio mi sembra più perfetta adesso. E poco fa ero con 2 watt, quindi è logico che arrivavo più basso, là. L'ho messa bassa questa antenna, perché era troppo pericolosa così com'era. Ok, ho capito. Va bene, comunque già ti arrivi bene, vai. Ok, ciao a te, ci sentiamo pure, magari più tardi. Ciao Gio Mari, grazie per il QRK, dai. Luca, ci sei? Chi è avanti? Ebbene, lo senti? Luca, ci sei? Chi è avanti? Avanti, chi è? Ma cosa la vuole fare abortante? Per far vedere che ci sei? Ma se non ti sei presente, che sei capodosso, davvero sei? E vede un po' pignolanza in chi ti pare questa. Se non è possibile, ragazzi, per vedere la sei. È la mente di tuo genere, boh. Avanti, chi è? Ma avanti, chi è su 10? Balla la Recci. Chi è avanti? Chi è avanti? Ma sa tua balla, sì. Tu sei malato, poverino. Vai da fanculo, due la portate gioia. Avanti fischio. Ma Giulio! Ciao! Beh. Che sta? Ma lei che ci vede sempre buona la portante, l'ovità può entrare, non è entrato mai. Ah no, so io ero in altri canali facendo delle prove. Mi vende gente malata, mi chita per questa, per carità, che elementi di merda. Questo tiraggio di... mi rispondono solo a chi vogliono loro. Ma che vadano tutti in donna mala, tutti questi stronzi che non hanno fatto altro che rovinare la frequenza. Purtroppo, che ci vuoi fare? Per carità, mi stavo mettendo a posto il cassetto dalla roba estiva. Stavo mettendo in evidenza e la roba invernale la stavo mettendo in un altro cassetto. Meglio. Chi è la chiama? Ho contato 38 mutandi. Ah, che ancora ti rimuovi? Allora, mi devo dire, capita, 8 pantaloni gotti, di pantaloni gotti, non è che li uso molto io, comunque pelaggio, nuovi, Ah, non te ne puoi. E ando a culo nudo, vado in giro. Mamma! Non è possibile, vabbè, aspetta che abbasso qui il vate. A 2 watt, ya mi intendi? Tanto lui già trae la madre la Recci oggi, no? Ya mi intendi? Sempre. 9:10. E allora andare. No, perché no. Ho fatto fatto un giro anche sui canali a vedere se c'è la propagazione, ma non c'è niente, niente di invitante. Ah, non lo faccio. E vabbè. Comunque mi stavo dicendo, cioè, stavo dicendo a Tarino ieri che l'antenna l'ha abbassata e adesso si sente di meno, perché l'antenna l'ha dovuta abbassare, non so per quale motivo, perché dice che era pericolosa, boh. Ah, boh, comunque non ne grava bene con questa antenna, no. Boh, boh. Il Bilbocca 2 a 2 a 3 a 3 va per trattarli, che cosa ne dici Natali? Cioè Luca, che cosa? Che stiamo dando? Non è andato in gruppi, mi pare il Bilbocca 2 a 2 a 3 a 3 no, te ne vuoi nudo, se non ne lavi nemmeno, e chi sono? Capita, non è possibile, così fai contenta tua moglie, e così un po' meno lavatrice anche, meno corrente elettrica, non è possibile, ragazzi, boh, boh. E vabbè, dai, comunque pigiama, io ne ho tre pigiama, io non ne uso mai pigiama, io con quei pantaloni corti in estate, d'inverno magari già mi metto, già ho la pigiama invernale, alle volte sì, alle volte no, non sempre, quando è un bel di freddo, un bel, allora me lo pongo, ma poi durante la notte me lo tolgo perché mi dà fastidio. Una fogaraccia mi dice, boh, adesso utilizzo questa, dove ci sono queste apparecchiature, e dice del poco da fare il cartolone, non se ne parla più. E quali? E le apparecchiature tipo Sogaffa, PMR e tanti altri. Fai bene. E cosa faccio? Non ci posso buttare la roba, no? Ne ho già 3 cassette miei, grandi. Non so più dove mettermi. Circo 10? Ma circo canale 10? Avanti canale 10? Giù, tu sei? Sì, ciao Giovanni, sì, io sono. E buongiorno, volevo un controllo oggi, che sto provando un microfono. Il microfono è ottimo, veramente bello. Ti lascio un attimo la portata, vedo un po', C'è qualche rosio? No, io non sento niente, tutto a posto. Santiago buono, 9-10 quasi, per cui va benissimo così, silenzioso, eccetera. Ok, grazie. Vabbè, tutto bene giù? Sì, direi di sì, dai. Naturalmente si sa sempre sotto controlli, comunque, d'altronde cosa vuoi fare? Non si può fare diversamente. I controlli via, perché te e io sono la stessa cosa, noi siamo la stessa cosa, però grazie a Dio non è che ci possiamo lamentare più di tanto, si va avanti, una vita oggi, una vita domani, andiamo avanti. Va bene, grazie, giù, saluto di casa e mi ha fatto piacere, ti ho sentito, dai, buon procedimento, stavo spazzolando perché ho messo a posto uno spinotto del microfono. Ci sentiamo, buon procedimento, buona domenica. Attenzione, binario 10, prego. Un attimo che salutiamo Gian Maria e dopo ti faccio entrare. Ciao Gian Maria, mi ha fatto piacere anche a me riascoltarti, dai. Tanti saluti anche a te in casa, ci salutiamo, ci sentiamo, alle prossime, ciao. Avanti Brecco. Eia, ciao Gian Maria, che sta andando via, ciao anche a Giulio, non so se ci sia altra gente, ho acceso adesso, sono in direzione Platamona. Stai andando a farti un bel bagnetto? No, negativo, oggi sono andato a farmi un giretto, dai. Un giretto così per prendermi un po' di sole e poi me ne ritorno a casa, dai, perché c'è troppo caldo. Mi faccio un giretto perché ho bisogno di prendere il sole, che c'ho la vitamina D bassa. E il dottore mi ha detto di prendere un po' di sole. Ah, ok, ho capito già. Vabbè, dai. No, io mi stavo sistemando qua la roba estiva, mi stavo mettendo in evidenza e mettendo dietro l'altra, quella invernale, così almeno quando vado a cercarla la trovo subito al primo colpo. Solo che ho riempito 3 cassette, ma non mi bastano nemmeno. Comunque, già mi arrangio. non c'è problema oggi. Ma io non ne devo fare di cambi perché ho un armadio per la roba invernale e un armadio per la roba estiva, più c'è la cassettiera, quindi ce l'ho già divisa giù. Quando viene l'inverno uso un armadio, quando viene l'estate uso l'altro. Ok, anch'io ce l'ho così, però sai, siccome durante l'inverno ho usato la roba invernale, ad esempio le magliette di sotto, quelle a maniche lunghe, adesso invece ho cambiato, mi sono messo tutte quelle a maniche corte. No, stavo parlando poc'anzi con Luca Flipper, e gli ho detto quasi quasi me ne posso mettere tre per volta di mutande, perché ne ho 38, ne ho contato, cosa meglio posso voi tutti i mutande, non lo so, io vabbè, anche io sono così, sia a casa che mutande ne ho, perché le case vabbè si bucano e ce le butto via, non ne aggiusto più, mamma le aggiustava con l'uovo di legno, le cuciva, le faceva, io non ne aggiusto, io ce ne butto, quindi di casa le vabbè sempre un bel mutande lo stesso. Ok già, no, le mie già sono tutte nuove, non sono da buttare, sono nuove, anzi addirittura ne ho anche tre dentro la confezione ancora, dentro la busta di plastica, che praticamente significa che quelle non le ho mai usate. Vabbè, comunque, già va bene, viva l'abbondanza. Ed è così, perché quando usciamo magari vedo una cosa, la compro e la porto a casa, e poi non si usa nemmeno perché ce n'è troppa, no? Non è il caso, siamo un po' esagerati, dai. Vabbè, già servono sempre, servono sempre, perché quando si bucano, ti ripeto, le butto via, c'ho quelle nuove, capito? No? Non sto a cucirle, a farle, adesso costano 2 lire, cosa te ne frega di cucirle? Prima mamma le cuciva, la sera la dedicava tutto al cucito, a ricamare, a cucire, a impastire, a fare, la sera la dedicava tutta così, con un'amica si mettevano e facevano i lavori. Ok già, no, non ne vale più la pena adesso per quello che costano. Pensa che in queste confezioni nuove ci sono uscite una è 8,50 e le altre è 2,750, quelle che sono ancora dentro la busta mai usate, ti puoi immaginare. Poi mi sono tolto un po' di pantaloni corti, ne ho 8 pantaloni corti, che poi non è che ne uso molto, io ne uso, li uso più che altro a casa, quando esco fuori per strada in genere sono quei pantaloni lunghi, per cui va, comunque ora ci sono e siamo lì, non c'è problema. Io già ce li addosso per non sbagliare, cioè pantaloni corti, ho messo un paio di pantaloni classici, corti però, capito? Classici ma corti, con disegno classico, là. Non sono di quelli sparati, sono di quelli buoni. Sono 30 gradi, non ti dico altro. Sì, oggi c'è molto caldo, infatti c'è molto caldo oggi, ma è destinato anche ad aumentare ancora il caldo durante la settimana. Io avevo sentito il meteo che poteva arrivare anche a 40-41 addirittura, e allora vuol dire siamo in piena estate, dai. Va bene così, già l'abbiamo sopportato abbastanza l'inverno e anche l'autunno un pochino bizzarro. Già lo credo, anche troppe cose ha fatto, troppi danni. Direi proprio di sì. vabbè, comunque, purtroppo non ci possiamo fare niente noi contro la calamità naturale, quello è normale, no? Vabbè, dai. Comunque ti sento molto bene sempre. Sei lontano adesso da dove sono io? Sono al bivio per Flazzamona. Praticamente dove ci sono quelli che vendono l'ortofrutta e poi c'è anche, come si chiama, quel locale che c'è, la fattoria. Ah, ho capito, sì. Sta arrivando Santiago 8 o 9, per cui va bene, la radio è sempre ultima, non c'è problema. Meglio così, dai. Allora, dove sei diretto? Porto Torres o Platamona? No, me ne vado alla rotonda, se c'è qualche parcheggio mi faccio una passeggiata al sole, faccio qualche fotografia e poi me ne rientro. No, a Porto Torres non ci metto piede. l'hai stufato Porto Torres, per troppi anni ci sei stato lì. Lo so, vabbè dai, no, guarda, va bene anche lì, perché no, anzi, è più vicino e dunque va bene, rientri prima anche a casa, non c'è problema. Già lo trovi un parcheggio, e oggi non credo che, sì, ci sarà sicuramente tanta gente al mare, però non credo che sia al massimo dell'affollamento oggi. Gappa gappa, vabbè. Oh, c'è il posto di blocco. Sì, ok, vai, vai, stai attento. Vabbè, ce l'ho sulla gamba, tanto non mi vedo, non mi vedo se non parlare. Mi senti così? Sì che ti sento, però attento sia che entri nella loro radio. Attento, ossia non si sa mai. No, no, l'ho già passato. No, volevo sapere se mi ascoltavi così, col microfono sul ginocchio, dai, per vedere se sei abbastanza... Sì, ti sento bene, ti sento bene. Leggermente più basso, però ti sento abbastanza bene ugualmente, almeno sino a questo momento. Sì, adesso sono già dopo il terzo pettine, insomma. Ah, ho capito, ho capito. E allora sei quasi arrivata a destinazione, dai, ci manca poco. Ieri sei andato alla festa dei punti che c'era il 1205. No, ieri non ci sono andato, forse vado stasera per sentire un po' di canzoni sassaresi, c'è il Costanzo Sanna, ci dovrebbe essere stasera, verso, che ora sono? Verso le 8 credo, boh, 7 e mezzo, 8, forse ci vado stasera, dai. No, io stasera vado, ma vado a vedere tale quale, se no, no, non canto sassarese, non ci vado, vado a vedere tale quale, basta. Ho capito, ma quello è tardi, quello mi sembra che sia intorno alle 10 e lo fanno quello spettacolo lì, poi non lo so, è bello quello tale quale è da vedere comunque, guarda se che ci vado anch'io anche a quell'ora, non lo so, vedremo dai. Io l'avevo visto a Porto Torres, un programma così tale quale, e c'erano cantanti veramente bravi, che cantavano molto bene. Sì, ma certo, io alle volte quando c'è la televisione, lo seguo la televisione, ci sono proprio delle trasformazioni micidiali, proprio belle, belle, belle truccati, come si deve, e anche molto ma molto simili alla voce, quella originale del cantante che appunto imitano. Sì, ma ce ne sono tanti, molto bravi, molto ma molto bravi. Non so, va, adesso vedremo, dai. Dopo c'era, sai cos'è? Che io intorno alle 8 devo fare una terapia, devo fare già, e poi vedremo se finita la terapia magari mi faccio una scappatina, intanto già è vicino a dove sono io, saranno 500-600 metri, dai, forse 800, non di più, comunque siamo lì. Infatti ci vado a piedi, anche perché intanto non trovo il parcheggio in quel momento, per cui va bene così. Staremo a vedere, probabilmente ci andrò, anzi sicuramente ci andrò. Sì, anche io non me l'ho preso la serata, se tu mi dici già, adesso vado stasera e te l'ho fatto tutte e tre. Ok, no, io ho visto la prima serata e non tutta, perché sono andato via verso mezzanotte, era un quarto, una cosa così. Mi stavo infastidendo il rumore altissimo delle canzoni che stavano cantando in azienda, eccetera. Mi stava dando fastidio, allora me ne sono andato, anche perché non capivo, no, siccome io non capivo la lingua sarda quando parlano, figurati quando cantano, ancora peggio. Mi piace l'armonia comunque, la musica mi piace molto, però non capisco le parole, dunque diciamo che ho desistito di rimanerci ancora più a lungo proprio per quel motivo. Infatti intanto non capisco, me ne vado, anche perché sono infastidito dal troppo rumore, troppo alto, gli altoparlanti li sentivo, nonostante che ero lontano dal palco. Benissimo, Santiago 8 e Radio 5, perfetta. Lo so, anche perché non è che sia molto grande la rotonda, per cui... E a me come mi senti lì a Platamona? Mi senti bene di radio, soprattutto? Sì, sì, ti sento bene. Adesso che sono in mezzo a qua agli altri, che sono sotto tutto. Ok, già. Vabbè, dai. Ah, boh, dai, ti lascio libero di scendere dalla macchina e fare un quattro passi, così almeno ti svaghi un pochino già. Va bene, ci sentiamo eventualmente se coincide stasera, dopo le 4:30, 5, non lo so se ho voglia quell'ora, vedremo, dai già, ok? Grazie per la chiacchierata, ci sentiamo, ciao già. Luca, se ci sei, io ho finito qua, scendo giù. Attenzione, canale 10. Hola, attenzione, canale 10, cambio. Canale 10.